classico, ci passo. E che le cose chiamano? No, no, del segnale, sì, 9 più 5, 9 più 10, massimo. E come lo primo? Sì, 9,25, minimo. No. Adesso? Hai fatto a strappi stai andando, non lo so, forse sono le stazionarie. Forse la pioggia, mi guarda che sono aumentate anche da me, normale, almeno. Qualcuno dice che da 1 e 1 non si muovono, ma un po' di solito influisce la pioggia. Ma vedo che qua il baracchino, il 10 ormai è abbandonato, no, di canale. Non c'è mai nessuno. Forse è venuto l'ora di cominciare a vendere apparati, hai ragione tu. Vendere apparati, metterli solo su eBay. Non ho mai venduto su eBay, ma mi sa che è la volta buona. C'era. Indovina chi c'era ieri. Eia. Eia. Poi arriva, è arrivata alle 4, se n'è andata alle 9 e mezza. 5 ore c'è stata. E non ha fatto niente. Ha spostato la roba da una parte e dall'altra. E non ha fatto niente. Purtroppo, vabbè, oggi vado a fare. Non è venuto, domani oppure venga, insomma, ne ho le palle piene, Natalia, ne ho le palle piene. Poi, nel suo modo di fare, poi, capito? E vabbè, quindi ieri siete entrati, io non c'ero, pazienza. Fammi vedere, cosa ci dipende da me, mi? Sì, 9 più 5, 9 più 5, non è mai stato così basso. Non è mai stato così basso. E anche a me lo fa. Questo spinotto col cavo diretto mi è venuto male. Mi è venuto male. Ogni tanto fa. Trasmette solo con la calza, capito? No, addirittura proprio mi scollega il centrale, è un macello. Purtroppo questo case io non so come portarselo. Un giorno piove, poi da lì, lì dove sei tu, è impossibile fermarsi, è impossibile parcheggiare, io non so come fare. Non so come fare, o vengo in tram davvero. E poi non è detto che la scheda madre ci stia. Immagino che le schede madre di adesso siano diverse, boh. Siano diverse. E va bene. Comunque sta andando bene il computer da tavolo, è fisso. Come li ho pulito, prima li ho messo, ho pulito con l'aria spray. Qui ho spruzzato del CRC perché nello slot della scheda video c'era una specie di ossido bianco. Ne ho messo il CRC, quello asciutto. Poi ho messo la scheda madre, la scheda video dell'altro, o può darsi che sia buona anche la sua scheda video, solo che c'era ossido, c'era polvere ossido, infatti gliela conservo, poi la RAM non va bene, la RAM è più alta, lo sai, praticamente quelle levette che bloccano non bloccano, non riescono a bloccare, è troppo alta la RAM. Forse non va bene, anzi non va bene, come visto che non chiudeva l'ho tolta direttamente per evitare di fare danni. Sicuramente vuoi una RAM più vecchia o più nuova, forse più nuova perché è DDR400, o come si dice, non mi ricordo, va bene. Comunque con quel browser che ho messo è un bijou, riesco a navigare, a vedere i video, tutto fa, capito? Sono veramente contento. Poi mi stavo anche studiando i processori, tipi di processori, stavo guardando un po' tutto, sono andato al sito di quello via Bucari e ci sono tutte le periferiche con prezzi, eccetera. Praticamente a me converrebbe, se lo dovessi fare adesso, mettere un i3 oppure un i5 di processore Intel, i5 o i3, i5 è più potente, poi una RAM 8 GB DDR4, quello ho già capito, me l'hai detto tu, che il DDR3 è vecchio, si usa il DDR4 e poi boh. Comunque non è per adesso, dai. Io sfrutterò quei computer finché proprio non esplodono. Quando proprio non potrò più fare niente, allora navigare, allora ci penserò. Conta che ho anche gli smartphone, quindi io faccio tutto da lì. Addirittura è uscito l'i9, io ho visto l'i7, ma che prezzi anche. Già l'i5 costa, l'i3 è una via di mezzo. Allora, l'i3 l'ho visto su computer portatili di classe media. Se vai un gradino più su della classe media, tra la media e l'alta, c'è l'i5, i computer portatili. Poi l'i7 ho visto i prezzi stratosferici, aspetta un processore. Vabbè, comunque adesso sfrutto XP, e quando proprio muore, allora li terrò, cioè li terrò, ce li butterò, altro è tenere. Eia, chi c'è Gianni? Ho sentito un bip. Buonasera a todos, ciao amicosi che non siete altro. Mico Marco, sono stai a casa, andiamo a vedere se ci sono Natali no. È andata a Pignara, invece vi ho trovato. Io sono in ascolto, Natalino, Santiago 5 mi stai arrivando, controllati. Vabbè, Santiago 5 stai arrivando qua, Io rimango in ascolto, buonasera a tutti. Ciao Flo. Ciao, ciao a tutti. Ehi, casomai, ciao Claudio, ciao Gianni, prova l'antenna diretta e vedere se sono l'ispezione, oppure... Non è che il vento ti ha fatto casino all'antenna, no? Io stavo guardando sempre se c'era la mia quel giorno, quei due giorni di vento, mamma mia! Riprendi. Beh, io un po' di stagionate ce l'ho, 1,5 sarà forse, sul 40. Vai Gianni. No, io sto controllando adesso di 1,1. E ma quel vento ha fatto delle raffiche allucinanti, stamattina, o ieri mattina, che ho guardato l'antenna e diciamo che non si muoveva molto per il vento che c'era. Vabbè, perché è bella grossa, la mia un po' oscillava, ma è anche più sottile. No, a me interessava non perdere radiali. Vabbè, mi interessava che non cadesse, perché tra ieri e l'altro ieri, roba di vento, mamma mia, certe volte le folate arrivavano, senti più. Io ce l'ho grossa, immagina quella megera alla rotonda con quel vento, io dico gli era stracciato tutta la copertura, ma come si fa a vivere in quelle condizioni? Perché poi se muore cercano un responsabile, mi danno la colpa al comune o non so a chi la danno, cercheranno un responsabile perché l'hanno fatto morire lì. Com'è che si chiamava Marco? A chi la megera? Aspetta, Elsa Soggia, pronunciato Elsa Soggia. Ripeti che c'è qua, che la cerco su internet. Eia, Natalino, hai controllato? Claudio, come mai sei all'ascolto? C'è la gola ancora? Pomponio, sei rimasto a casa? Ci sei? Natalino, hai controllato? Beh, buonanotte al secchio, ciao. Marco. Temo. Guarda, com'è adesso? 9 più 25 quasi. Si telefonato se c'hai, quanto hai, un watt, 2, 3, quanti ne hai? No, i watt non li ho toccati, dai. Adesso sei più alto. E cosa era, uno spezzone? Sei sceso di nuovo. E adesso? Di nuovo salito. Ma cosa sei, con l'antenna diretta? No. Ma allora, vabbè, bisogna andare a esplosione. E quante stazionarie avresti senza accodatore? 1 e 2, va. Allora con 1 e 2 non si mette l'accordatore. E non c'è l'accordatore, infatti. No, dico, io l'avrei disinserito con 1 e 2. Cosa metti con 1 e 2 l'accordatore? È sempre disinserito l'accordatore. Ah, ecco. Ehi, Gianni sta controllando informazioni di quella della mia fidanzata. Le trovate già? Niente, buio totale. Ma ho telefonato Pomponio poco fa, se andavo con lui uscivo a bermi qualcosa. Ho trovato questo tempo, poi ci ho messo mezz'ora e più a trovare parcheggio qua. Figurati, siamo con la macchina adesso. Con questo tempo puoi uscire. Infatti non fanno. Vabbè, noi eravamo ad Auchan, ci siamo mangiati un kebab anche oggi. Un bel kebab, purtroppo le cipolle non ce l'avevano, la cipolla ci hanno messo un po' di patatine dentro, non è la stessa cosa, però era buono lo stesso. Bene. Bene, bene, dovevamo comprare io una batteria, una lampadina per il faro anteriore, devo controllare se si è bruciato o se sono falsi contatti, per oggi pioveva quindi niente, lo controllerò quando tutto è asciutto. Infatti, lo sai quelle spie che mi si accendevano nella macchina, si è rotto il tachimetro e bisogna smontarlo e spedirlo fuori per farlo aggiustare, non puoi mettere manco uno di quelli del ferro vecchio. Oh, ma il tachimetro come è, lancetta o digitale? Sarà tutto, sono le lancette ma ci sono, ma sono digitali, dai, quindi praticamente quelle spie si accendono, bisognerebbe mandarle in continente, mi ha detto l'elettrauto, per farla aggiustare, perché se metti uno di quelli del ferro vecchio poi alla revisione non passa la macchina perché non è il suo, che non ti corrispondono i chilometri, un casino. Quelle sono le cose che rompono le palle, me. Che rischi quasi di non passare la revisione, per carità. Queste macchine sono una maledizione. Una maledizione, ci sarebbe da viaggiare con i mezzi pubblici, farsi l'abbonamento e boh, risparmieresti un bel di veleno e di soldi. Ma purtroppo quando ti serve. Adesso è tornato normale che sono scesi anche le stazionari. Sì, il segnale è più forte. Secondo in che posizione lo metti? Perché c'ho tutto l'ingarbugliamento dei filtri, un casotto, capito? Vabbè, questo filtro te lo devi comprare o non te lo sei comprato? Io sono senza me. Ehi, cazzo, tu non ne fai disturbi me. Io è che disturbo, non tu. Vabbè, ma se dovessi usare raramente lineare, sono senza filtro. Non lo possiamo accusare, non sia che disturbi. Ce l'hanno disponibile, ordinatelo, no? Così il mio rientra alla base. Devo darti i soldi e lo ordini tu, perché a me mi viene male, come cacchio faccio? Telefoni e te lo fai mandare contrassegno. E voi perdete un bicchiere d'acqua però, caspita. Basta telefonare, se quello è d'accordo. Ci sono tanti mesi per... Comunque io problemi non ne ho a ordinartelo. Capito? Così è nuovo, bello nuovo di pacca. Sì, anda bene mega, anda bene mega. comunque hai capito come questa parente ci dà una mano, ma a pesci in faccia ci prende. Già gli stavo spiegando il computer, no? No, ha detto no, me ne frega niente del computer, capito? Ti fa delle rispostacce come se fosse in casa sua, capito? Perché aveva fretta, poi non ha combinato niente, ha spostato la roba da una parte all'altra, dall'altra, da destra a sinistra a destra. Ma hanno messo tutti i fili del computer lì toccando, facendo, per passare la scopa, che non c'era, c'era solo polvere, non c'era niente di che. E insomma, nelle palle piene di questa intrusione. Purtroppo piomberà domani, oggi ha detto di no, ma oppure piombi domani. Anzi, quando ero fuori mi ha telefonato, mi dice, siete in casa? Ho detto, no, siamo ad Auchan. Ah, beh, allora pazienza. Capita. Non è possibile. E una persona acida, hai capito? Acida. Mai avuto il manico. Quindi, capito? Sarebbe più dolce. Io per quello ci vuole roba grossa. E poi caspizzina, se glielo dai non te lo torna più. No, ormai è troppo tardi, il carattere è quello, il caratteraccio è quello. Pensa quando non ci sarà mamma più. Io spero che campi mille anni mamma, e finirò tra le sue grinfie, capito? Con la scusa che ti aiuta finanziariamente e ti comanda bacchetta. Povero me, povero me. Meglio fare il barbone, guarda. Quella ti fa diventare campagnolo, ti spedisce in campagna a lavorare. Ehi, senza scherzi, come fa col fratello, siccome lo mantiene, sempre lo... se lo porta a lavorare in campagna, a fare questo, a fare quello, così sarà lo stesso con me. Cioè ti fa un ricatto morale, sempre che ti aiuti, come parlare, ti aiuti, allora devi aiutare me tu. Mamma mia, turchi, non mi ci fare pensare, non mi ci fare pensare, guarda. Meglio che campi mamma a 100 anni, eh? Se no non mi senti già manco più al baracchino, che quella mi schiavizza, capito? Il minimo, anche 200, speriamo che di 200 qua male. Guarda, è molto meglio, aspetta. Questo pittetti un po', ci devo spruzzare. Gianni? Sì, non mi ha sentito? Ho detto per la fine di Falcone, che gli hanno preso il baracchino e non lo fanno più modulare. No, non ti ho capito già. Com'è Falcone? Ho detto che farai la fine di Falcone, che ti ripiglia il baracchino, tu la sera non ti fa modulare. Eia. Poi lo so che lei, quando mamma andrà in cielo, se lei sarà ancora, vorrà che venda questa casa, lo sai. Per farmi, mandarmi a abitare nel monolocale. Quindi non posso nemmeno farmi un futuro, una famiglia, convivere, perché cosa convivo in un monolocale? Certo, è bello, è redatto, è tutto... Però io preferirei non vendere questa casa. Metti che mi metta con una a convivere. Io ci metto la casa, lei ci mette magari uno stipendio, che ne so. Vabbè, non ne voglio nemmeno, non ci voglio nemmeno pensare. No, ma di quella maggiera hai cercato qualcosa su al computer? Ehi, lo sai perché è andata a Platamona, tu non lo sai? Oh, io sapevo che era a Gorizia o da quelle parti là. E poi, non so, le hanno fatto gli spetti. Dimmi tutto. Allora, lei ha avuto un infarto e i dottori gli hanno detto che gli faceva bene l'aria di mare, quindi si è trasferita a Platamona per quello. Ma ci morirà col freddo gelo invernale, col vento, con l'umidità, cazzo, all'aria dell'aria di mare. E lasciala fare, quando muore cercheranno responsabile, o il comune o chissà chi. Cercheranno di dare la colpa a qualcuno che non l'ha assistita, che non le ha fatto il TSO in tempo, capito? A me non me ne frega nulla comunque. Non è un problema mio. Ah, lasciate Vicente, va. Ui ui. Ecco, ci siamo. Pensa che... Chi è che me l'aveva detto? Valerio, ci aveva creduto davvero che era la mia ragazza, ci aveva davvero creduto, dice, ah, dice, ma stavano scherzando, cazzo, non ti pare che mi metto con la mangiera, c'ho 80 anni. Ui ui, Claudio, perché non parli? La gola come va? Non mi ha detto niente. Un fantasma è diventato anche lui, eh? Va bene. E sto baracchino, se si svuota ancora davvero mi vendo, mi tengo solo i Superstar 3009, i due 3009 tengo e boh, tutto il resto me lo metto su eBay e mai si veda, tanto sono nuovi e così farà Natalino. Mi sto uscendo, sto parlando al muro. No, stai parlando al muro. Tu non hai sentito cosa ha risposto? No, mi diglielo. Allora, mio marito ha detto che morendo io si piglia una di 18 anni e io gli ho detto col Viagra e il borsellino. Pieno? Pieno, io un po'. Bene, bene. Che tempo, però ci vuole, cioè la pioggia ci vuole per la campagna, per i vaccini e tutto, da, speriamo che piova, insomma, abbastanza quest'inverno, se no la sette prossima davvero facciamo la fila a Piazza Lissegna con i bidoni a pigliare l'acqua potabile. Questa fa bene questa acqua qua, l'importante è non ne fosse a truffa da far danni, ma varai a dire. E da poi però leva chi fa, zia accudini in mare, che ancora non sono decisi a collare i vaccini e marasusti l'accudi a tutti. E noi da sera, e noi in estate soffriamo la sete, bastardi. Vabbè, la sete noi già compriamo sempre acqua in bottiglia, non ne beviamo acqua di rubinetto, una volta la bevevo pure. Io una vita che ho bevuto acqua di rubinetto, poi quando c'era certo l'acqua in bottiglia la bevevo. Ma io mi ricordo che quando ero piccolo io, era in vetro l'acqua, tipo la Fiuggi, la Ciabattino, era in bottiglia di vetro. Sto parlando degli anni 70, fine anni 70, dai, me le ricordo le bottiglie. E ricordo anche che dovevi ritornare il vuoto e ti restituivano i soldi del vuoto, ti ricordi? Ehi, già me lo ricordo già, io non ne ho mai bevuto dal rubinetto, addirittura io in campagna c'avevo il pozzo a sonda, l'era usata come intazzava, ghiacciata, a chi guarda era qualcosa di spettacolare, eppure io non ne bevevo, mi babbo la beveva l'acqua di rubinetto, io mai, non ne ho mai bevuto. Ti dirò, cattiva non era, solo quando mettevano il cloro, che sapeva il cloro era imbevibile, allora sì, basta che uscisse pulita e non gialla e si poteva bere. Tanto mi calcoli, se mi devono venire mi vengono anche con l'acqua di bottiglia, quindi se sono predisposto non c'è niente da fare. Va bene, già mi riprendi? Ehi, hey, Marco, scusa un attimino che stiamo guardando una cosa, le dite tu su. Eia. Eia, eia. Adesso, questo Natale, sì, elargirà qualcosa a quella persona, ma te li dà sempre con, non lo so, il termine giusto non lo so trovare. Come se ti stesse facendo una concessione papale, mi. E allora? Deve essere una ficcata. Sai cos'è? Ha sempre paura che la vogliano fregare. Così col tabacchino, così con le bollette, ha sempre paura che la vogliano fregare. una ciccata si controlla le bollette una per una, ce le ha tutte catalogate per data e vuole fare la stessa cosa a noi. Ma è fiscale lì, capito? Si controlla le 100 lire, cioè i centesimi, a vedere se è tutto giusto. È un'ebrea. Mia Melody, mia moglie se lo scrive pure in un quaderno tutte le bollette che paga, tutto quanto. Sì, studiare non è possibile. Beh, un po' bisognerebbe comunque metterle da parte le bollette, perché mamma è pasticciona, se le dimentica in borsa, nei jeans, dappertutto le trovi. Invece andrebbero messe in quel libro che ci abbiamo, mese per mese, tipo quelle pagate, l'altro mese pagate, invece è tutto un caos, no? Non riesco a farglielo entrare in testa. Cioè, da una mamma, da una parte mamma è troppo, allora me ne frego, invece mia zia è troppo fiscale. No, mia moglie ha la cartella anno per anno e ci sono tutte le bollette, tutte le cose che ha fatto, capito, i documenti, tutto conserva anno per anno. Se no è un caos, se no ti cercano una cosa non la trovi. Eia. E infatti così andava fatto. C'avevo fatto una specie di cartella, non so, una specie di libro tutto con fogli trasparenti, no? Acqua, luce, scritto proprio così, tipo acqua, luce, telefono, tasse, condominio, capito? Invece pasticciona mamma, non sappiamo manco se abbiamo pagato, se non abbiamo pagato. È quella che si incazza quando viene qua. Noi se non le paghiamo un mese, le paghiamo il mese prossimo, ma non è che non le paghiamo, lei sempre pensa che non le paghiamo. Guarda, anche mamma non la sopporta più, lo sai, quando viene, mamma è sempre in ansia. Lo so che non la sopporta perché gli rompe le scatole quella, fiscale come? È logico che gli rompe le scatole a Ghita, non è abituata. Mia moglie è abituata così, lei è abituata così, l'ha sempre fatto. Infatti anno con anno li prende e tanto per dire 2017, tutto quello che riguarda nel 2017 è in quella cartella, non è venuta di là. Così lì quando va a trovarla, trova la cosa, le tasse, tutto quello che paga, tutto bene. Vabbè, un po' di ordine bisogna farlo, quello è vero. Ma addirittura, a parte il bollettino pagato, no? Voleva anche conservarci tutte le... Sai quel foglio che ti danno col dettaglio del telefono, no? Otto, ma cosa ce ne facciamo di questi? Basta aver pagato la bolletta, c'è la data di scadenza, c'è il riferimento. Niente, vuole conservare pure quel frontespizio. A fare scartoffie. E perché una vita sì, a conservare le fatture, ui. Le bollette, al limite ti compri una di quelle cartelle anno per anno e ci schiaffi tutto quello che risulta di quell'anno. Ma cosa fattura? La bolletta ti chiedono, da dirci l'hai pagata, con c'è. Sì, chiedono la bolletta, il bollettino, che può essere pagato alle poste o al tabacchino. Non mi ricordo chi, non tutti però. Non tutti si possono pagare al tabacchino. L'Enel sì, poi non so cos'altro, non me lo ricordo. Tutto puoi pagare, qualsiasi cosa al tabacchino. Quando ha pagato le tasse non le ha pagate al tabacchino, gli hanno chiesto il codice fiscale, è fatto, perché devono aggiungere il codice fiscale, capito, a quelle, magari c'è il tabacchino, si prendono la brigola, però quello che c'è sotto a casa tutto ti paga. Concetta paga tutto lì per non fare la fila alle poste, se no ogni volta roba di fila, ogni anno, ogni mese. Lo so. Se capiti con le pensioni, vedi tutti quei vecchi decrepiti che aspettano la pensione. senza alludere a mamma naturalmente, che lì ce l'ha in banca la pensione. Le poste è un casino, in banca, guarda, la nostra banca Monte dei Paschi c'è sempre poca gente natalina, solo raramente trovi 5-6 persone di fila, ma è tranquilla come banca. Poi ritira il bancomat lì, capito? Nel bancomat interno va, non fa la fila allo sportello, va, mette la carta e ritira. È abbastanza pratico. Va bene, vediamo se è rientrato Gianni. Ecco, a voi, Marco Condor. Stavo dicendo, anche alle poste così, a noi al libretto della pensione ci hanno allegato la carta e noi prendiamo dal bancomat, non ne vemo via. Se dopo i lastri vogliono entrare a Brento, ma se i motivi si basano in ravvita dalle zincu di Manzano, la riconvenza. Perché certi anziani hanno paura di essere fregati, allora la vogliono in mano la pensione, capito? Hanno paura di essere fregati. Basta, vabbè. Bell'ecco Gianni, bello penetrante. Bene. Bene, bene. Adesso vediamo per Natale cosa mi regalo, tanto ho già capito che questa moto non riusciremo a metterla in auge, non riusciremo a metterla su strada, dai, è stato un acquisto sbagliato. Non è stato un acquisto sbagliato, è che vivo in Ridina, come ti para macchina vivo in Ridina para moto, ci vuole uno stipendio per mantenere. Io se avessi avuto uno straccio di stipendio me la sarei pagata io l'assicurazione, capito Natalino? Vabbè, il bollo è una cosa ridicola, costa pochissimo, l'assicurazione me la sarei pagata io. Però appunto se non c'è un lavoro, anche il nero, anche il nero per dire. Antonello di questa cosa della, del foglio ISE, lui diceva che bisognava fare entro dicembre, no? E non so se tu me l'hai detto a gennaio conviene farlo, e io gliel'ho detto e, ma non ho capito cosa mi ha risposto, non, certe volte non capisco, non capisco cosa dice, vabbè, e non so qual è la verità, insomma, se va fatto entro dicembre oppure a gennaio. Marco, se tu lo fai a gennaio, l'ISE che è riferito è quello di quest'anno, quindi cosa ti fa dell'anno passato, Marco? Cerca di ragionare. I redditi sono quelli di quest'anno se lo fai a gennaio, ed è quelli che ti chiedono. Quali redditi? Dimmi Gianni. Mica c'è circo Zanfretta, sta cercando qualcuno a avvitare i bulloni. Cosa c'è il circo? Zanfretta, sta cercando uno per avvitare i bulloni, se ti interessa. Ma perché loro non se li sanno avvitare? Cazzo, tu sei cercando di travagli. Sì, da ufficio magari, a rispondere al telefono, a passare circolari, tipo bidello, quello sì. Magari che ti diano lo stipendio se non fa nulla. Sarebbe meglio per Marco. Comunque in Africa stanno cercando gente a drizzare banane, mi. Ma lì ci vuole una donna. No, tu hai detto si basta anche. E lì hanno non solo fame di ma hanno fame anche erotica, capito? Ma ci passa tutto, uomo, donna, mezzo e mezzo. Vicino a casa c'è un albero col buco. L'albero col buco? E beh, l'hanno fatto l'albero di Natale, i fascisti, quelli vicino là. Non lo so, oggi sono passato contento perché stava piovendo, sono passato lì sotto e stavo guardando dentro e c'era gente, subito si è litigato in vula, a vedere i carini. Non sia che sia un comunista che passa a spiarli, me. Tra l'altro avevo la cuffietta e il cappuccio. Dovevi alzare il pugno sinistro, il pugno chiuso sinistro, compagni. C'era un periodo che perseguitavo i fascistoni, che li cantavo avanti il popolo, li facevo correre. Avanti popolo, ma la riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. A coso mi attemporale, Natalia, roba di cose che facevamo fare. Natalia. Lui è apolitico, lui è per il suo partito. No, davvero, a me di destra e di sinistra non mi dicono niente. Poi gli estremisti, sia di destra che di sinistra, mi stanno sulle palle. Tutti questi che vanno a picchiare, quegli altri là, Forza Nuova, per carità, non gli è bastato, no, Mussolini e tutto quello che ha combinato. Vabbè, ha fatto anche cose buone, costruito scuole, ha anche bonificato la Toscana, la Sardegna, che era una mezza palude in certi posti, però non c'era libertà né di parola, né di pensiero, né di stampa, niente. Poi ci ha portato in guerra, è stato il colpo di grazia. Ma io sto scherzando, non me ne fichi più da macchina. Eia, nonostante Fabrizio Mascherato lo dica sempre Dio benito, se ci fosse lui non potremmo né parlare né pensare, capito? Sarebbe tutto a senso unico lì, il pensiero. Non ci sarebbe la stampa libera, ammesso che oggi sia libera la stampa. Io sono più tendente all'anarchico, io sono... non me ne frega niente. Non me ne frega niente, può andare allo sfascio il paese, tanto a me, più vado allo sfascio di così. Me, ieri hanno fatto, su Focus hanno fatto la rivoluzione d'ottobre lì, in Russia, hanno fatto Lenin, Stalin, eccetera. Anche lì roba di regime, nessuna libertà di parola, di pensiero, di stampa, per carità, già non hanno fatto porcherie, gente ammazzata, fatta sparire. E quello è nulla, i musulmani non volevano mettere la moschea lì, a cosa sarà detto Putin? Moschea, ma comando io, se non ti piace tornate a dove sei venuto. Ehi, dovevano fare anche così in Italia. Questi imam sono dei lonfioni, questi imam, già lo sanno chi sono quelli, le cellule, capito? Quelli pro-ISIS, lo sanno benissimo. E spesso sono anche loro in mezzo a queste ISIS. Perché il Corano non deve essere interpretato. Loro lo interpretano come vogliono loro. Ma infatti il Corano non credo che sia, sì, parla anche di parole tipo guerra, ma anche la Bibbia mi pare, cioè se dovessi seguire alla parola, proprio alla lettera, voglio dire, certe cose della Bibbia anche noi saremmo degli estremisti, capito? Purtroppo è così. Il Corano dice Allah è grande e misericordioso, capito? Non ne dici di guerra. Eia. Anzi loro dicono quando Allah Akbar, quello termine là, Allah Akbar, vuol dire Allah è il più grande, nota no, grande, è il più grande, come dire il più grande di tutti gli dei, il più grande. Sì, comunque i normali, le persone normali non dicono che il Corano, non dicono che il Corano dice di ammazzare, di tagliare le teste, no, quelli sono gli scoppiati, gli estremisti, capito? Anche i cristiani ci sono gli estremisti, capito? Solo che non si applica a queste cose. Dice che è misericordioso, è grande, tutto questo che vuoi, però di guerra non è da vita di ammazzare niente. Già ci sono quelle sure nel Corano che dice che i cristiani li devono uccidere, già è vero. Però, cazzo, ti pare che tu ammazzi a tuo fratello, non hai compreso. Facciamo una cosa di mezzo, diventiamo tutti ebrei e ci mettiamo quella papalina in testa. Gli ebrei non sono meglio di nessuno. nessuno. Gli ebrei hanno ammazzato tantissima gente, hanno rubato la terra ai musulmani, quindi non sono più bravi di nessuno, gli ebrei bruffi, a chi lo si vuole vedere, uno con l'altro, non solo l'altro, il popolo più bastardo sono gli ebrei. Me, guarda, ho detto a mamma una cosa simile. Gli ebrei erano sparsi per il mondo, no? Da millenni che sono sparsi per il mondo. A un certo punto hanno deciso di tornare nella terra natia e hanno invaso quelle zone là, insomma quelli dove c'erano, vabbè già capito, adesso non mi viene il termine, hanno invaso quelle terre e si sono autofondati lo stato ebraico, rubando la terra però ai cosi, ai palestinesi e a chi c'è intorno lì, capito? Quello è vero. Dopo millenni di coso, è come che noi diciamo, no? Noi italiani. 2000 anni fa eravamo padroni di tutta Europa, no? Allora cominciamo a invadere la Germania, perché i romani sono stati in Germania, in Francia, anche in Inghilterra. È come noi che andiamo in Inghilterra, invadiamo l'Inghilterra a dire questa era la nostra terra, migliaia di anni fa. Eravamo i padroni. Non funziona così. Poi vabbè, già sono lonfi gli ebrei, a futtidini. Non sono attinti di santo. E poi sono estremisti, anche loro sono, chi è che me l'aveva detto? Anche gli ebrei sono i più razzisti che ci siano, non credere. Per forza, dopo tutto quello che gli hanno fatto passare, non lo so io. Lo vedi che, ma lo sa Hitler perché gli ha fatto la guerra agli ebrei e li ha sterminati a milioni? Perché avevano l'economia della Germania in mano, gli ebrei, i migliori professori, i più ricchi e più erano gli ebrei. Capito? Beh, come ha preso colpi la Germania nella prima guerra mondiale, quando hanno perso, si sono indebitati con banche i tedeschi, forse per pagare anche le cose di guerra, come si chiamano, si sono indebitati con le banche, sicuramente erano banchieri ebrei, quello sì, quello è vero. La Germania ha rotto le palle per due guerre, comunque si è risollevata molto bene dalla prima guerra mondiale, nonostante tutti i debiti che aveva. Come si è risollevata anche dalla seconda guerra mondiale. Germania è sempre stato un paese abbastanza, forse hanno anche una classe politica migliore, non lo so. Fanno entrare pompiste, tutte le amichette di Berlusconi, mi già hai capito? Ehi, ma tu lo sai cosa c'è? Che non dicono mai che siamo stati noi italiani a ricostruire la Germania, era tutta bombardata, era distrutta. Via, come Berlino, dopo che tutta razzacciolo era, tutta macerie. Ma te ne immagini l'opera di ricostruzione immensa che ci è voluta? Hai di pulire le strade dai palazzi ridotti in polvere, mamma mia, non ci voglio manco pensare. È brutta la... Gianni, stai parlando sopra. Ho parlato sopra te. No, Gianni ha parlato sopra te. Scusami Marco, ti ho solo considerato dentro. No, dicevo, immaginati l'opera immane che hanno fatto a ripulire proprio le città crollate. Prima a ripulire tutto e poi a ricostruire. Mamma mia, con un lavoro, l'uomo è incredibile quando ci si mette. Riesce a fare cose incredibili. Gli italiani, gli immigrati italiani che hanno ricostruito la Germania, che tutto adesso non sappiamo un cazzo. Poi adesso le guerre, l'hai visto o no? Per queste missioni no, nel Medio Oriente, si chiamano missioni di pace, adesso le guerre si chiamano missioni di pace, capito? Ma e stanno indottrinando i bambini a questa cosa. Ci sono 6 soldatini con aerei, cosa, no? Li ho visti da Ushan, c'è scritto sull'etichetta, no, con le figure, missione di pace. Quindi fanno capire ai bambini che la guerra è giusta perché è per portare la pace. Non so se mi spiego, missione di pace, capito? Se è una missione di pace allora è giusto farla, ma c'è sempre guerra, ahimè. Se è per missione di pace non devono andare al calibro 50 come ci andava Fabrizio, quell'amico mio, con la briga passata, sai no? A 4 km ti fa saltare il naso quello. Però come mai che l'hanno messo a coprire le fosse comuni, cazzo, hai detto al coso, al comandante, gli hai detto mi mandi dall'altra parte perché non ce la faccio più, che li veniva il volta testa, ma con una puzza, non si poteva stare da loro. Mamma mia. Infatti se è una missione di pace mandate la Croce Rossa, mandate aiuti umanitari, farmaci, roba da mangiare, non l'esercito. È troppo comodo che chiama le missioni di pace. E mandano ad addestrare i militari di là, fanno tante cose l'esercito, capito? Ducato va via calibro 50, però non va via i castucci. A Rosa Vasia, per potersi allenare, andava, prendeva il carrello, l'attaccava alla jeep pieno di birra, andava dagli americani a farci dare cartucce in cambio della birra. Me l'avevi detto, che erano a corto di cartucce, praticamente gli americani davano le cartucce e lui gli dava roba in tanto. Allucinante. Fabrizio la birra gli dava, perché sono tutti ubriaconi. Ma gli americani sono anche ubriaconi a whisky, roba forte, capito? Whisky. C'è la Far West, come Dean Martin, che si è spaccato, mamma mia, devi vedere Dean Martin come era ridotto in una delle ultime foto. Sembrava uno malato di AIDS allo stadio terminale, un mostro era diventato. E l'alcol ti consuma, è più vecchio. Sì, io avevo visto a questo proposito la foto del fratello di Pomponio. Io conoscevo, no, bello faccia tonda, no? Guarda chi è questo signore anziano. Dice, cosa, Giampiero questo. Consumatomi, barrisucciato, proprio, già hai capito, no? Proprio mangiato e divorato dall'alcol. Ma quanto per bere, si comprava 3 casi di birra, in più il mirto cosa si comprava, di alcuni questo non lo ricordo, però ogni giorno voleva questa roba. Sì, me l'ha detto Antonello, oltre alla birra che si beveva una bottiglia di mirto al giorno. Dopo un anno il fegato ha fatto puff. Per carità, chi beve è soggetto a queste cose? Cacca al fegato, cirrosi epatica, tutte queste cose qua. Poi non bisognerebbe manco fumare. Lo sai che chiede le sigarette, cioè è infermo a letto, vuole sigarette, vuole birra, il fratello Antonello, se non glielo dai o non vuole mangiare o ti tira roba addosso o ti insulta, se ti avrei dato una passata di colpi, ah. Infermo non infermo, vero Natalì, non fumeci, non fumare, datti al sesso. Ok. Non so cosa ha detto mia moglie. Ui. Tutti i vici fanno male. Ricordati anche a me la roba dolce che mangio adesso, fra 10 o 20 anni mi porterò alla tomba. Però caspita, io un vizio bisogna averlo. A me piacciono i dolci, non ci posso fare niente, è una malattia. A chi piace fumare, a chi piace bere. Sì, bocchi dossi. Sì, a bocchi dossi. Dovevamo sempre andare a fare le analisi del sangue, compresa glicemia. Oppure mi hanno detto la fanno anche in farmacia la glicemia. pongono il dito, mettono il sangue a questa macchinetta e ti dicono quanto hai. È vero, eh? Vieni a casa, te lo faccio io. Che se no glielo faccio io, ce l'ho qua la macchinetta. Naturalmente io immagino che un'analisi di laboratorio può darsi sia anche più precisa, ma almeno avere un'idea. Dovevo andare dall'oculista per controllare gli occhi, perché ci vedo sempre più male, tra computer e tablet mi si sta rovinando gli occhi. Non sai, già il computer ha fatto il suo danno, più con questi tablet, mamma mia. Poi guardo la TV e la vedo tutta sfocata, lo sai, perché l'occhio non è più elastico come prima, che si abituava alle distanze, da vicino a lontano, adesso è più mandrone l'occhio. Comunque Marco, le macchinette sono precise, perché tu devi contare che in base a quello che segna la macchinetta ti devi fare l'insulina. Se per dire hai una glicemia 230, roba del genere, ti devi fare anche 25-30 di insulina, capito? Perché deve scendere a 99. Secondo quanto ce l'hai alta, devi misurare così le dosi dell'insulina, capito? Non mi ricordo la gamma dei valori normali. Io ero appena più su della media. Tipo, se i valori vanno, che ne so, da 1 a 10, io ero 6. Poco più della metà, 6 ero circa. Adesso non mi ricordo i valori, già, i valori normali, da quanto vanno, da tot a tot, te lo ricordi? Quello della glicemia è 99, prima era 120, adesso l'hanno portata a 99, non deve essere più di 99, se è più di 99 vuol dire che sei diabetico. No, il valore minimo qual era? Cioè il valore minimo e massimo. Ma mi sa che è da 80 a 99, una cosa del genere. Ma io ricordo una gamma più ampia e io ero appena più su della metà. Però sai, io continuo a mangiare i dolci, cioccolato, a fiumi, sto sempre scorreggiando. È una cosa. Poi mi, già ci siamo divorati un panettone, adesso ci stiamo divorando il pandoro a colazione, insomma, sempre dolce. E beh, qualche vizio devo averlo anch'io. Non sto più trombando, non fumo, non bevo appena, giusto ogni tanto un bicchierino dopo pranzo, però non bevo, si può dire, non bevo birra, non bevo, insomma. Cioè, avere il vizio del bere è un'altra cosa. Però i dolci per me sono una squisitezza. Non ho mai perso, di solito da bambini piacciono i dolci, poi un po' come si deve tradurre si preferiscono altre cose, invece a me mi sono continuati sempre a piacere i dolci. Non so anche tu, da quando hai parlato di alcolici, l'altro giorno ho messo il frigorifero, la vodka, quella al coso, alla pesca, e mi sta piacendo, cavolo, mi piace un bel. Occhio, mia moglie si è comprata un boccione di limoncino. Un boccione? Una damigiana? Un boccione, ce ne accorta, e poche briagona mia, oi. Sparami. Guarda, a me piace il melone molto. Ma per mia zia è stucchevole, non le piace. A me il melone piace, la pesca, sì, anche alla pesca volendo. All'ananas non la fanno più, perché non lo so perché. Poi alla fragola troppo dolce, secondo me. No, la fragola no. È buono, quello che c'è è buonissimo, Marco. È molto buono. Ma per due o tre volte l'ho bevuto, adesso non sono più toccato. Ma gocciarito lì, non è che per gustare. Quella è buona veramente, quella ti piace al palato proprio. E in offerta anche a delle amiche che sono venute a casa, così li imbriagano. Se vuoi chiamare tu una discoteca, di solito che cocktail prendevi anni fa, quando eri più giovane, insomma, ventenne? Allora, prendevo whisky e coca, oppure premevo su quello francese, come si chiamava? Non lo ricordo. Vabbè, non mi viene. È un nome francese, non me lo ricordo come si chiama. Grand Marmi. No. Guarda, a me piaceva perché era abbastanza dolce, buono, l'angelo azzurro. Prendevo sempre solo quello, l'angelo azzurro. E mettono, mi pare, il blu curassò e poi non so cos'altro. Ma mi permette che ci penso. Ma un nome francese, cosa può essere? Di solito tutti sono ulcia, caipirinha, mojito, queste minchiate a base di rum, rum bianco, cos'altro c'è? Però di francese non mi sovviene. Oh, lo sistema qua si usa, ce l'avevo in mano anche io, non mi viene il nome, il whisky e cocca, da buco sale. Io non bevo, quindi non me lo ricordo, so quello che c'era. Ma era un cocktail vero, non un liquore. È un cocktail, sì. Però fatto con un liquore, pare che sia fatto. Io cosa ricordo? I nomi non mi ricordo, il Manhattan, sai, però sono cocktail vecchi quelli, cocktail dell'anno 3 che si conoscono da una vita. Cioè, a me piaceva l'angelo azzurro, buono, veramente buono. Qui anche il colore era accattivante. Con la M inizia a cazzo, fatelo ricordare. Con la M, tu. Non lo so. Quando me lo ricordo già te lo dico. E poi ci sono cocktail proprio inventati dai baristi con una, con la loro, con il loro mix inventato da loro. Ma come per la caffetteria, io al bar di Piazza Le Scene avevano fatto questo caffè, il mascarpino, cioè ci mettevano, vabbè, cioccolato, cacao, poi anche il mascarpone. Il mascarpone, ma sai quanto era dolce? Veniva questa crema, mamma mia, tra... buono, buono. Com'è che si chiama mascarpino? Marocchino, diglielo già. Mascarpino, era una specie di marocchino, in più ci mettevano il mascarpone, no? Che ha un sapore neutro e veniva così cremoso, ma era un bijou. Io una volta gli ho chiesto il marocchino, ascolti, se è marocchina è meglio. Insomma, se è marocchina è meglio, però io sono un po' razzista, ma a me queste razze nordafricane non mi piacciono, anche se sono buone, il tipo, sono prevenuto. Marocchine ce ne sono molto belle, lascia perdere, che ce ne sono anche modelle che fanno marocchine che sono molto carine. Vabbè, dai, riprendete che ce l'ho saputa la lingua, questo cacchio di cosa non lo ricordo. Afef, te la ricordi? Afef. Sì, io la ricordo. Sono razzista, io sono un po' razzista. Non solo come Berlusconi che si era pigliato quella lì, come si chiama, che era anche Bonaretta, mi. Minca mia issa. Minca mia issa. va bene. Ce l'hai sulla punta della lingua già questo cocktail, così è? Sì, ma il nome del liquore, capito? Poi viene fatto per dire, c'è come whisky e coca, no, mettono la Coca-Cola e whisky. Questo qui, boh, non mi viene. E tu non ti ricordi nemmeno i liquori che usano per farlo, no? No, uno me lo ricordo sì, l'altro no. Comunque il cocktail l'ho fatto anch'io l'altro giorno. Ci ho messo il rum, ci ho messo... L'ha fatto uno, un amico mio, tutto quanto affratti, era colorati, ma tu devi, cazzo, embriaco me ne so cantato. Embriagato. Guarda, più ne bevo più mi piace, lo so quanto era buono, però ti imbriagheggia. Se ne bevi un bicchiere come me l'ho bevuto io così, poi... Eravamo in un bar e c'è il retro bottega lì, chiamato per le coppiette, eravamo io, questo amico mio e due ragazze. Tutti imbriachi, un casino. Se ti siete concessi, via. Tempi passati sono andati. Lo so. Ti gira a guardare, non li vedi più. Ma. Cosa vuoi che sono? Ma Marco ancora lì è. Ma Natali, ma la volta che c'era Marco, mio ex cognato, pure tu c'eri, la volta che siamo andati a sfondere quelle prostitute, c'era la sola fila di quell'amico suo. No, me l'avevi raccontato tu, ma non c'ero io. E poi così è rimasto manica. E te tu qua cosa ci fai? Non lo vedi che sto lavorando? Vai, torna a casa, io poso in macchina, che se lo sa Mabudu che fai questo mestiere, dove? Lasciami in pace, vedi che sto lavorando, se no mi dice cosa il mio papà. Mi posso indolare. Oh, sto guardando già, cocktail dal nome francese, ma questo è un pasticcio, non mi fa vedere subito i nomi. Allora, mi potete dire il nome di qualche cocktail francese? Aspetta un po'. Ma questi non sono cocktail, questi sono cognac, cointreau, champagne, sono i nomi di liquori questi, non sono cocktail. Ecco, cointreau e succo di frutta era. Ah, mi ricordavo con l'Eber, cointreau e succo di frutta. Ma il nome del cocktail avrà un nome, no? Proprio il nome, vediamo, aspetta. No, questo Fairweather, ma questo che nome è francese? Full House, Jugendis, aspetta, ci sono. Amer Picon. Aspetta, però che Kiev, Kiev Royal, Cider Cup, Champagne Cocktail, Bentley, Bentley, Sidecar, Sidecar, White Lady, ma non sono francesi questi, dai! No, era quattro e succo di frutta, così lo chiedevamo noi, quattro e succo di frutta. Metteva il succo di frutta, la pera e quattro, e lo sai che era buono. Buono, bello dolce. Dolce, buono. Ma proprio al palato era proprio di lusso. Non era esageratamente dolce, però era dolce. Ed era ben buono. Il quattro è al mandarino, no? E caprette. E io sto digitando quattro e succo di frutta. No, no, no, non c'è corrispondenza, vediamo, ricercato ricette contro il succo di frutta. E vabbè, bisogna aprire pagine, al diavolo, dai. Comunque era buono, caspita. Poi in discoteca invece mi ricordo quella roba per donne, era un liquore, una bottiglia divisa in due, da una parte c'era la roba bianca, tipo una crema, dall'altra c'era una specie di crema alla ciliegia, ma era di un dolce nauseabondo, non mi ricordo il nome di quella roba lì, non so se c'era presente già, una bottiglia divisa in due, una parte più piccola di non so di cosa alla ciliegia o cosa era, e l'altro di colore bianco beige, era crema. Oppure prendevo Fritz Patrick. Inventato da loro? Ma tu dove andavi al Fritz Patrick? E io andavo in tutte le discoteche della Sardegna. Giravo a Ossi, a Scalarruia, all'Airport 89, mi pare che si chiama, Airport 89, dove c'era l'aereo, di giochi sull'aereo. Poi andavo al Ghero, andavo al Moulin Rouge, al Ghero, oppure insomma hanno girato tanto. Andavo a Valle d'Uria, andavo da tutte le parti, dai. Sono andato girato tanto, sono andato anche a Stendino, al Cap, a Bugo, perché se si chiama, non lo ricordo più capacissimo. Ve l'avevo detto che era morto il fondatore del Ruscello, Michele Bozzi, un po', vabbè, ha personalità con i pennetti lasciamo stare, era morto da poco. Adesso vabbè, lo prenderà, immagino, il figlio, la figlia è una stronza emerita, la figlia. No, non lo sapevo, anche a Ruscello sono andato anche d'estate quando lo aprivano il tetto e praticamente si stava all'aria aperta. E diciamo anche che si respirava, se no al chiuso era un calcio. Mamma mia, ma tu non hai l'idea di che caldo c'era in Cambusa. Un caldo boia, sarà che c'erano le lavastoviglie accese, un caldo boia c'era. Che poi sei io perché andavo sempre tipo Rotang, perché ci lavoravo, conoscevo gente, ci andavo anche con figlio di Bella 3, quindi entravamo gratis, capito che ci andavo, se no io non sono mai stato troppo patito di discoteca, troppo caldo, troppo buloso, troppo rumore anche, ne uscivo che mi fischiavano le orecchie. E quello l'ho fatto, noi andavo a rimorchiare, me la fuggeruta di Luis. Guarda, bello era il Blue Star, ci eravamo entrati con quella 3, Blue Star, mi pare tre piste, no, quello è che è Blue Star, che ha tre piste, cioè in una fanno la musica normale, nell'altra è liscio, non liscio, scusa, musica anni 80, bella molto, molto bella. Vabbè, va bene, ormai non ne ho più voglia di andare in quei posti, troppo rumore, troppo caldo. Guarda, c'era andato nel 2003 con gente di scuola, ma veramente non mi ci trovo più bene, troppo caldo, troppo rumore. Anch'io fisicamente mi rendo conto che rispetto ai 20 anni tribula la cosa, tribula. No, io proprio il tipo di musica che c'è adesso che non mi va. Prima quando andavo io c'era musica vero, e proprio trovavo il ritmo ballando, questa musica qua, è tutta così, sì. Non è una cosa che non mi piace, non c'è un ritmo, non trovo il ritmo ballando, capito? E invece prima ho voglia che si trovava il ritmo a ballare, e ballando marcette, shake, ghise, ghidas, e poco ci divertivamo, mamma mia. Io andavo sempre, andavo tutti i venerdì e sabati, e a volte anche le domeniche, però facevo i notturni io e andavo di notte. A me tu mi piace, solo che mi devo fare piccare i piedi, banda. Esagerato. Mi ricordo. Eia. Oh, certe volte a me piaceva anche roba tipo techno, mi. Addirittura i rego fanno battute tipo ore. Non credo che si impatticano. Per rimanere in piedi si devono impatticare, se no non lo reggono così. Guarda che il rego è terrificante. C'hanno dei cosi lì velocissimi. Ma quello alla fine è rumore. È tutto così. Boom, boom, boom, boom, boom. Allora Marco, l'ultima volta che sono andato peraltro per stare con un amico a passare una serata diversa al solito, ascoltarci un po' di musica e cose, siamo andati proprio a Ussi, dove è tutto, e stavamo a ballare, c'erano questi cinesi, tutti quanti facevano sconvolti, a un certo punto vado in bagno e questo amico mio è venuto anche io, ce la devo andare anche io in bagno, siamo andati, meno male siamo andati in due, tutti e due facevamo servizio ambulante, tra l'altro, abbiamo trovato due ragazze, tutti e due in passiccati l'overdose, l'abbiamo massaggiato e poi abbiamo chiamato il 118 e l'ho portato via tutti e due, e quegli altri sempre ballando con la faccia, se tu vedi questa faccia era persa nel vuoto, tutto con gli occhi, con lo sguardo in alto, tutti gli altri sconvolti, tutti cinesi. Ragazze collassate, erano cinesi anche loro? Sì, sì, sì. Gli avete fatto un massaggio respiratorio, sì, toccando le tette. Beh, in quei momenti non pensano a queste cose, ma io sono professionale in queste cose, non penso a queste cose qua quando faccio un massaggio cardiaco, ci mancherebbe. Anche se il padre di questa ragazza una volta che si è masticata, il padre ha detto perdonatemi, ma io gli ho aperto la camicia, gli ho fatto il massaggio, ma si figuri, se ha fatto bene a farlo. Stavo mettendo senso di colpa perché l'aveva smontato la camicia, capito? No, cioè, naturalmente scherzo, no, lo so che... le avete salvate al limite. Quelle magari, che ne so, gli si gira la lingua, no? E soffocano così. O come John Belushi che affogano nel loro vomito, quando no, sono fatti in su magari. Sono scemi, le persone, i giovani sono matti, si impatticano di qualsiasi cosa adesso, prendono schifezze di qualsiasi tipo, chetamina, ma la chetamina ci dà i cavalli. Allora, prendono di tutto di più, poi ogni tanto ci scappa il morto, è chiaro, no? Sì, estasi, tutte quelle pastiglie lì, sono tutte pastiglie che fanno male, cancellano cellule cerebrali, cose che non ricrescono più poi le cellule cerebrali, se le altre cellule ricrescono quelle cerebrali, no? E diventano i macchi, oltretutto, non lo capiscono, io non lo risolvo. E niente, ci siamo fatti con la serata lì e abbiamo anche ballato, però c'erano questi cinesi vicino, guarda, che erano sconvolti, c'erano stati 4 o 5 tra donne e maschi, tutti quanti sconvolti, col viso che si vedeva 30 km lontano, che erano impasticati. Mi hai fatto ricordare una cosa, dice che a seconda di che droga prendi, no, tendi a smacellare, cioè a mettere la mascella di un lato, no? Ho visto una foto su internet di un tipo pelato, con gli occhi allucinati, se te lo mando, guarda, una cosa allucinante, io chissà cosa gli passava in testa al tipo, e ha trovato la foto adesso però. Vabbè. Non la posso immaginare. Ma lì riprendi che io sto andando a portare giù il cane. E vi saluto tutti cordialmente, dai, riprendi tu la Tali e poi fai girare, dai. Un attimo, io devo andare in cucina a fare una cosa. Ma io vado a fare questa cosa, vai, poi mi nanna. Marco, comunque la discoteca, diciamo che a me mi ha fatto conoscere veramente tante ragazze, coso. Ho avuto anche qualche ragazza così conosciuta a discoteca, quindi diciamo che mi ha dato qualcosa, dai. Ricordi di gioventù. Adesso mi sto ricordando una cosa, quando ero con quella Eliana, siccome il padre la faceva tornare a casa alle 8, alle 9, dovevo andare al turno, cioè turno a mezza serata, casa piena di bambini, lì, di piccini, io ero più grande di lei, no? Insomma, così era, troppo giovane l'ambiente, capito? E purtroppo lei di notte non la mandava, assolutamente. Ma lo sapeva che stava con te? Sì, però di notte non la mandava. Non la mandava. Io ho trovato la foto. Cioè, su che occhi tipo. Questo chissà cosa cacchio si è preso. Faccio te la mando. E la manda, ma... Comunque, metti la discoteca. Se ci divertivamo veramente. Se vedi una in queste condizioni, guarda, lasciala così, adesso te la mando. Come mai non mi compare nei download? Questo telefono non capisco in che senso, in che ordine metta le foto. Dai, pazienza, dai, pazienza. Già, niente da fare, dai, casomai un'altra volta. Non compare tra i download, non capisco perché. Sta così sulle palle sto tablet, guarda che non fa così. Ti ho mandato qualcosa come consiglio, va. Una bella ragazza. Oddio che essere. Pure un video, esci a vedere. Ai mamma mia, che cosa orribile. Pure un di cazzo sarezzo, c'è cose di chi se li sotto di veccia. No, non lo sopporto, ma non posso vedere. Aspetta, perché è Natalino. Ma è tornato Natalino? No, gli ho mandato a faccia di tutto. Mamma mia, così non mangia più, non cena più. Esci dai, che me ne vado, devo portare giù il cane, ma... Mi senti? Ha fatto... Via. Vabbè, già, dai, ci sentiamo. Ci sentiamo, Marco. Ciao. ciao, alla prossima, dai. Qua c'è invasione di campo, quindi non so quando ci sentiremo di nuovo. E beh, ti ho dato per niente. No, sono Gianni. Tu, c'è un freddo qua, Dio. Meno male che ho... che ho la seconda camicia sotto. Ma qua ci sono 22 gradi. Ho preso la stupa, io sto bene. Hai fatto bene, Natalia, accenderla. Lei appena scende di qualche grado l'accendo anch'io. Qua se io non l'accendo c'è un bel di freddo. Sì, anche qua, anzi io sono più esposto anche. Solo che, vabbè, sto tenendo duro, dai. Qua ci sono 27 gradi. Beati voi. No, qua non ho messo anche per mia scelta, potevo metterla, ma alla fine, vabbè, parlando mi scaldo un po' alle mani, più che altro freddo. Ciao, Fra. Ciao, ciao Natalia, ho ascoltato anche a te. E guarda, io sono di fronte all'uncino, ma gli chiedo qualche cosa. Ciao, ascoltare. Ciao, Fra. Ciao, Natalia. Allora, sei piccolino, stavo... Come? Come mai sei così piccolino? Forse c'ho stazionarie. Cos'è? Va ad entrare da un tempo. Che ne so. Devo provare a mettere qualcosa. Qualcosa sarà successo. Gianni, cos'è andato a portare il cane? Cappa! Sentito Rai, Lisi ci hanno minacciato per Natale. Bobo! All'Italia? Ma non li possono cazzo. Mamma mia, mamma mia! I bastardi gli arrivati, li quello dici, a toccare gli occhi non li sveccano. Quello mettergli, lanciare una bomba atomica dall'aereo, col fiocchetto regalo, mi, con la carta regalo, col fiocco. No, così non va bene. Vogliono presi, vivi, e messi il candelotto di dietro. E poi dato poco. Ah, la bomba col fiocchetto con la scritta auguri. E allora come fanno loro, no, che mano che rientrano questi bambini di Tettolo, ma rientri qualcuno mi mangiano un servizio da voi il direttore e vado a scoppiare da gente. Cosa avrei fatto a loro? Eia, ma se te ne immagini, altro che botte di Natale, ah, una bomba così piccola a 30 kilotoni, niente di più, 30 kilotoni, i botte di Natale, e che ciocco che fammi. E poi gli avrei mandato la scritta nell'aria dopo i botti, botte di Natale, easy. Poi Natalino è peggio di me, io anzi sono moderato, ma Natalino è peggio, vero Natalino? È più sanguinario Natalino. No, avrei messo, non so cosa avrei fatto, io avrei preso di quei tubi d'acqua, di quelli da tre quarti, e avrei fatto la filettatura da una parte e dall'altra, e li avrei riempiti di polvere nera, e poi gliel'avrei messo nell'ano, così gli sarebbe esploso il derettano. Non va bene così. Bene così. In questi casi va non so per bene, perché intanto mi manco i butti. Solo un candelotto dietro, vedrai che... ma quei butti ci appano. Puoi scegliere da lì, o il candelotto, o gli puoi mettere il plastico, bello, glielo, siccome è bello malleabile, gli riempi il testino di plastico da dietro, oppure il Semtex, quello che piace tanto a loro per gli esplosivi, capito? Gli fai bello, glielo ingeppi ben bene e poi dai fuoco. Eh no, ci vuole il detonatore, la miccia lenta, legata a un bel palo, così aspetta la morte, perché lui non lo sa quanto è lunga la miccia, il più lungo possibile, così soffre di più. Così quando arriva subito dicono, ah, meno male che era fanciulla, come dice fanciulla scusa. Solo che mi dispiace sprecare un sigaro per l'esecuzione. Oh, te lo fumi tu il sigaro alla faccia sua? Ma tocca sprecarlo per accendere le micce, capito? Oh Natalì, stavo leggendo che se prendi, che ne so, LSD oppure MDMA, no, queste droghe da discoteca, tendi a smacellare, cioè giri la mascella da una parte all'altra, mi. viene a mascella sorta, adesso ti mando uno zeppo di droga, guarda la faccia che ha. Chissà cosa vede, cosa sente. Se ci prendono anche le droghe per i cavalli, io non lo so, boh. Si drogano con qualsiasi cosa. La chetamina, la chetamina. Boh. Lascia che si ammazzino da soli, mi guarda la foto che ti ho mandato, guarda che bello elemento, questo è zeppo di droga fino agli occhi. Ecco, a voi da allucinante. Guarda la faccia del tipo, sei allucinante. Ma lo sai a chi si somiglia? All'arbitro Collina. So che l'arbitro Collina non è in quelle condizioni quando arbitra, ci mancherebbe. O se no la PCP, mi, PCP, com'è che si chiama? Poli, un'altra, mi, non so quante ce ne siano, non si contano più queste droghe. È bello che i ragazzi le spacciano, le provano tutte, sono mancanti, non lo so cosa c'hanno in testa. Io mai ne ho preso di quella roba lì, eppure ce n'era a me all'epoca. E... non so che c'era all'epoca, però sa, la persona non si parla, no? E ti dirò di più, a me non me l'hanno mai offerto, nessuno è venuto a dirmi vuoi roba, mai, perché la clientela ce l'hanno già, sono quelli che la chiedono già alle persone giuste, capito? Non è che vanno a chiedere tu ne vuoi, no, e non so più a chi dare la colpa però. Chi la vende o chi la cerca, non lo so a chi dare più la colpa. E se nessuno ne cerca di droghe, nessuno ne vende. E infatti, oh yeah. Caspita, le 8.26, Natalie, io, porca miseria, mi volevo guardare un telegiornale, ormai è andato. E comunque c'è troppo freddo, io devo andare via da qua, dai. Ci sentiamo, non lo so, domani verrà con la strega, quindi ci sentiremo. Dopo domani, forse. E cerca di finire vivo. Ciao Marco, alle prossime. Ciao Franco, se c'è ancora anch'io faccio QRT. Alle prossime. Ehi, ciao Natali, alle prossime, dai, ci sentiamo. Ciao anche a Marco, ciao Marco. Ehi, ciao Fra. Oh, come vedi questo canale sta morendo, non sta più entrando nessuno, ascolta. Alla fine mi vendero tutto, mi tengo solo due baracchini, solo i 3.900 mi vendo, il resto lo posso anche dare, non ne vale più la pena proprio. Va bene, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, vieni con me. Va bene, io lo vedi. Certo, non qua, qua non c'è mercato, sui eBay me li metto, quei baracchini nuovi, di nuova generazione, quelli già si vendono. Quelli sì. Vabbè, ci sentiamo. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao.